Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. La linea della Palma, evocata da Sciascia, ormai ha raggiunto le Alpi e Beppe Pisanu lo dice senza mezzi termini. Esiste una questione settentrionale delle mafie. Il presidente della Commissione Antimafia lo ha appena scritto nella sua relazione e lo spiega ora a Storiacce, in un'intervista in cui parla anche di liste e candidati, di trattative e pupari, di Ciancimino e delle polemiche siciliane, come del coraggio di certe scelte politiche impopolari. Ad esempio, dice Pisanu, quando si deve eliminare un collettore di voti o quando si deve riconoscere l'esistenza della mafia nel proprio territorio. Tra questi grandi problemi del Nord bisogna mettere a giusto titolo le grandi organizzazioni criminali italiane che da almeno 40 anni hanno risalito lo stivale e ora si sono insediate nel centro e nel nord Italia soprattutto, dove sviluppano la loro dimensione economica e finanziaria in maniera inquietante. Ma secondo lei è inserita davvero a giusto titolo? Il problema c'è, tutti vorremmo che non ci fosse. Purtroppo le mafie si stanno sviluppando nel nord in virtù di enormi investimenti che praticamente coprono tutti i settori di attività e che debbono trovare in loco vaste complicità. Presidente, nella vostra relazione scrivete che non si sono mai visti tanti interessi criminali scaricarsi pesantemente sugli enti locali, sulle istituzioni regionali e sulla rappresentanza parlamentare. Risulta che c'è una costante pressione delle mafie ad entrare con persone al loro servizio direttamente nel cuore delle amministrazioni locali, di quelle regionali e salendo su fino al Parlamento italiano. C'è un intreccio tra mafia, affari e politica che si sta sempre più consolidando. Lo scopo è evidentemente quello di mettere le mani sugli appalti, sul ciclo dei rifiuti, su interi settori come quello della sanità, che rappresentano tra l'altro dal 60 all'80% della spesa ordinaria regionale. Io temo che non venga esattamente percepito. Dispiace a chiunque prendere atto che nella propria città, nella propria regione, ci sia invece una penetrazione mafiosa sempre più inquietante e quindi è anche naturale la tendenza a dire: ma no, ci saranno sì delle persone che sono arrivate qui, ma non c'è da temere. Ecco, questa valutazione è un errore micidiale. Bisogna tener conto che queste presenze ci sono e costituiscono una autentica minaccia per l'economia, la società e le istituzioni delle aree colpite dalla penetrazione mafiosa. Secondo lei, affrontare anche temi come questi, che possono sembrare un marketing negativo, può essere anche una battaglia che politicamente può pagare, o al contrario, non affrontare certi temi può essere anche una posizione che da parte delle persone, quindi anche dei propri elettori, può essere un tema politicamente svantaggioso? Guardi, le risponderei con un proverbio: il medico pietoso fa incancrenire la piaga. Viene male riconoscere a persone oneste che la propria regione, la propria amministrazione comunale, la propria amministrazione regionale è inquinata. Però quando c'è bisogna prenderne atto, ed è un atto di responsabilità e di coraggio dire: c'è questo rischio, cerchiamo di individuarlo nelle sue esatte dimensioni per colpirlo con forze adeguate. Fenomeni di questo genere genere non si sconfiggono soltanto con le forze dell'ordine e con la magistratura. Questi fenomeni si combattono anche con lo spirito civico, con la tutela dei valori, della legalità, con l'attenzione degli amministratori nei confronti di tutto ciò che si muove in maniera sospetta. L'anno scorso sono state segnalate circa 27.000 operazioni sospette alla Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, soprattutto da parte delle banche. Però c'erano anche tanti altri soggetti che avevano l'obbligo di denunciare e non ne hanno denunciato praticamente nulla. Ed è per questo che voi nella vostra anche relazione parlate della necessità di un attacco alle mafie che sia sul fronte meridionale che sul fronte settentrionale. Ma per farle proprio una domanda, diciamo, diretta, secondo lei il fatto che a Milano sia partito il maxi processo alle cosche calabresi, alle cosche di 'Ndrangheta a nord, e che nessuno degli enti locali lombardi, al contrario di quelli della Calabria, abbia avuto la sensibilità di chiedere la costituzione di parte civile, è un errore? È stato comunque un errore rifiutare l'idea di una penetrazione profonda della mafia nell'economia, nella società e nelle istituzioni della Lombardia e del Nord Italia in generale, solo, come dire, per amor di patria, per rispetto di se stessi. Questo è stato un errore, perché in realtà questi fenomeni ci sono, sono difficili da individuare. Io non getterei addosso la croce ad un pubblico amministratore, però siccome c'è chi, lavorando in questo campo, li scopre questi fenomeni, bisogna che si accentui l'attenzione verso di essi. Bisogna avere il coraggio di prendere delle posizioni impopolari. Giusto, se non si individua la malattia e non la si riconosce, non la si può neppure curare, e qui siamo di fronte a una malattia grave. La questione Ciancimino, lei esprime la sua preoccupazione per certe contraddizioni, se non sbaglio usa questa parola, relative ad uffici giudiziari, ma secondo lei anche la stessa magistratura a volte presta un po' il fianco a polemiche? È comprensibile che davanti a vicende molto complesse possano intervenire anche valutazioni discordanti da parte di magistrati avveduti e scrupolosi. Quel che bisogna assolutamente evitare è che contraddizioni, diversità di valutazioni emergano all'esterno, fuori dagli uffici giudiziari, perché si corre il rischio di far intravedere alla mafia persino l'esistenza di guerre tra coloro che la perseguono. In qualche caso ci sono state delle inutili e dannose polemiche che bisognava evitare. Presidente, in un altro punto della sua relazione lei torna anche su un'altra questione, i controlli sulla formazione delle liste elettorali. C'era stata una polemica anche per le informazioni che le prefetture davano o non davano. Sul fronte politico trova una coerenza anche nel conservare questi stessi principi nella formazione delle liste oppure no? Il contrasto alla mafia da parte dello Stato c'è ed è in crescendo, ma il contrasto politico alle mafie è ancora insufficiente, altrimenti non ci sarebbero. Ci vuole impegno molto più vasto da parte di tutti i partiti politici e un controllo minuzioso sulle liste, perché la capacità di penetrazione delle mafie con gente di fiducia, con le carte apparentemente in regola, è una penetrazione davvero diffusa e allarmante. Noi corriamo il rischio di avere intere amministrazioni o parti importanti di pubbliche amministrazioni sotto il controllo mafioso. E quindi bisogna avere il coraggio di casomai scartare, anche se è un collettore di voti, ma non è considerato un paladino della lotta alla mafia, pur di dare un segnale forte politicamente. Esatto, e questa è una responsabilità che incombe soprattutto sui partiti. Devono essere più attenti agenti più vigili, invece spesso non lo sono. Ci sono indagini che ci rivelano immagini per me umilianti di candidati alle elezioni che si mettono in fila alla porta del boss locale per chiedergli aiuto elettorale e promettere in cambio sottomissione politica. Faceva riferimento, immagino, tra l'altro anche ad un'inchiesta della procura di Reggio Calabria che aveva proprio anche filmato i candidati mentre facevano la processione a casa di un boss. Ma è un'immagine emblematica. C'è l'anniversario a breve, il 19° anniversario della strage di Capaci, tutto questo mentre ancora si indaga su quel contesto, diciamo, in cui maturarono delle stragi. Che effetto gli hanno fatto le parole di chi, come l'ex presidente Ciampi o di altri, hanno ammesso di aver temuto per la tenuta del nostro paese in quella stagione di stragi? Il loro timore era fondato, il presidente Ciampi me ne ha parlato anche più di una volta personalmente. Vedere una mafia che prima colpiva i suoi nemici, passare poi alla tecnica delle stragi, dalle stragi addirittura all'attacco a dei monumenti nazionali, dava l'idea di qualcosa di stravolgente che fosse avvenuto anche all'interno delle organizzazioni mafiose. Fortunatamente, ma per merito di tanti eroi come Falcone e Borsellino, lo Stato è in gran parte riuscito a respingere questo attacco. Personalmente ho partecipato con tutti i colleghi della Commissione alle indagini che noi stiamo facendo sui grandi delitti e le stragi di mafia del 92-93, non perché ci vogliamo sostituire alla magistratura, ma perché vogliamo individuare una plausibile verità storica per poi organizzarci e fare in modo che non si ripetano più. E per fare in modo, casomai, anche che non ci siano più pupari in circolazione. Purtroppo sì. Io la ringrazio. Come sempre vi ricordo che potrete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, dal sito www.radio24.it nella sezione podcast, oppure ci trovate direttamente su iTunes. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook di Storiacce e il nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato prossimo!